Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Amici di Striscia, oggi mi trovo a Milano per parlare del programma televisivo Masterchef, perché dovete sapere che sono arrivate in redazione alcune segnalazioni molto ma molto particolari che riguardano Niccolò, uno dei tre finalisti di questa nuova edizione, e nonostante che lui sia uno dei più bravi chef in gara, sembra che abbia omesso qualche verità. Niccolò sembra che abbia lavorato per un bel po' di tempo in un ristorante molto ma molto importante di Milano. I nostri segnalatori sono assolutamente certi che lui abbia lavorato in quel ristorante per più di un anno. Mi stai deludendo, vuoi che moro? I nostri segnalatori, per dimostrarci che tutto quello che ci hanno detto è assolutamente vero, hanno voluto darci in anteprima la classifica finale. La puntata di giovedì, volete sapere come finisce? Primo, secondo e terza. Cari ascoltatrici che state affettando la cipolla per il soffritto, voi che vi sentireste degne di essere vincitrici della versione 4 di Masterchef, voi che vi sentireste regineste del talent cooking, forse avrete inorridito questa mattina ad avere il doppio assalto incrociato che ha compiuto Striscia la Notizia nei confronti di Masterchef. Sono due punti di vista su cui voglio interpellarvi questa mattina. Primo, per voi cambierà la vita, visto che avete saputo in anticipo chi vincerà questa garetta fra i concorrenti. È stata un'azione che non aveva precedenti nella storia della televisione, ma visto che si sta radicalizzando lo scontro tra le reti, trovo che sia anche divertente che qualcuno faccia lo spoiler, cioè l'anticipazione mefitica e dannata del risultato di un talent show. Quindi probabilmente tutta la pubblicità, tutto l'impegno del canale Sky che trasmetteva Masterchef era concentrato su chi avesse vinto. L'ultima puntata andrà in onda giovedì sera. Questa, diciamo, tensione battuta e combattuta sull'ultimo sfilettamento, evidentemente Striscia Notizia ha voluto fare una maialata, ha voluto dire in anticipo chi è il vincitore. Il programma naturalmente è registrato, non c'è nessun trucco, fa parte ormai della maggior parte dei programmi del genere che registrano prima le puntate. Qualcuno dello staff, qualcuno dell'entourage, qualche concorrente o parente di concorrente che non ha gradito comunque il risultato, che ha voluto comunque fare un'infamata, come sempre fa, come quelli che vanno alle feste e poi chiamano i giornali di gossip per raccontare chi c'è. L'ho visto in persona, personaggi importanti andare a delle feste molto riservate e telefonare ai siti di gossip e dire chi ci fosse, chi non ci fosse, cosa facesse. Si chiama le serpi allevate in famiglia, quindi qualche serpe probabilmente che serpeggiava per gli studi di Sky ha rivelato a Striscia la Notizia chi fosse il vincitore. Striscia la Notizia l'ha detto, ma ha detto anche qualcos'altro, ha anticipato anche un'altra vicenda, che uno dei concorrenti in realtà non sarebbe un principiante, un novellino della cucina, ma avrebbe già praticato in maniera professionale l'attività di chef in un noto ristorante di Milano, anzi pare che addirittura lavori adesso per uno dei tre grandi guru della cucina, per Cracco. Cosa ne pensate? Cosa pensate innanzitutto dei talent legati alla cucina? Li seguite con attenzione? Trovate che diano una versione non realistica dell'arte culinaria, quello che per voi è la condanna quotidiana, per loro probabilmente diventa il massimo motivo di espressione folcloristica e spettacolare? 800240024, vorrei sapere il vostro illuminato parere mentre state lì chine sui fornelli. Fabiano, vieni. Carbonara di mare e profumo di caffè. Ma che caffè hai usato, scusa? Quello che ho trovato. Quello che ho trovato non è una risposta, Fabiano, mi fai incazzare. Non sei un ragazzino, le risposte vanno date precise. Ho caffè in chicchi. Caffè in chicchi. E poi l'hai macinato. Sì, l'ho macinato. Allora, due cose. Se ti sei venuto qua per fare una carbonara, è meglio che ti torni a Portoghiero. Carbonara, te caffè ai tuoi amici. Due, se proprio vuoi usare il caffè, non si usa il caffè in chicchi, perché non si può mangiare il caffè in chicchi. Bisogna usare caffè disidratato. Te fai un altro piatto così, te lo tiro da io. Se cacco si incazza, siamo fritti. Uno degli elementi scenografici di maggiore impatto che ha trasformato completamente nel nostro paese, ma visto che è un fenomeno globale, non è legato ai nostri confini patri, il punto di vista rispetto il cucinare, l'azione del cucinare, è la strafighettaggine dei guru che gestiscono questi programmi. In questo caso è Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joy Bastianich. Li sentite? Ormai la cifra essenziale del loro agire è il sadismo. Devono maltrattare come se fossero dei sergenti istruttori di Marines che devono andare a combattere con il pugnale tra i denti in prima fila contro guerriglieri spietatissimi e dei poveracci che vanno lì e semplicemente hanno perso un attimo il controllo se il caffè deve essere servito in chicchio, debba essere servito liofilizzato. È veramente questa la cucina? È veramente questo il cucinare? O nella spettacolarizzazione, nella visione tarocca, mediata, irreale anche del cucinare, è stato compiuto un grande oltraggio rispetto a quello che è il vostro operare quotidiano, che fate probabilmente con senso di dovere, di rassegnazione, di condanna, dovete farlo perché fra un po' arriveranno le persone affamate come lupi, ma in realtà vedete che persone lo fanno come se fosse una grande prova, un'ordalia, un passaggio a un'altra dimensione dell'esistere. Paolo, buongiorno. Io, buongiorno. Io volevo soltanto esprimere proprio lo sdegno per il disvelamento inopportuno della cosa della finale. Trovo che è un programma divertente, che per molti di noi è un modo di evadere una volta alla settimana dalle discussioni, dal lavoro, dalla fatica, e che qualcuno, ma senza motivo, perché fare una cosa del genere? Beh, perché posso dargli come... una cosa, scusi Paolo, motivo c'è. Dica. Io e lei ne stiamo parlando, se no altrimenti questa mattina non ne parleremmo. Quindi parliamo comunque di qualcuno, e nella televisione questo conta, che ha superato una barriera che perlomeno finora nessuno aveva osato superare, quella di fare l'infamata. Non ce n'era bisogno, cioè, allora parliamo anche se qualcuno improvvisamente va da un bambino e gli fa scoppiare il palloncino, cioè parliamo di una cattiveria fatta a tante persone. Ribadisco, veramente lo trovo criticabile. È quello che ha detto uno dei cuochi, Paolo, che in realtà l'affronto è stato fatto non tanto all'emittente televisiva, agli autori, ma alle oneste persone che di questo programma fanno una delle tante loro ragioni di svago. Personalmente io, aprendo la mia pagina di Facebook, ho visto un titolo del Corriere.it che oltretutto secondo me tutti gli altri media avrebbero dovuto dare la notizia senza metterlo nel titolo. È come dire. Beh, noi l'abbiamo fatto, Paolo. Noi abbiamo bippato i nomi dei concorrenti, la classifica. Bravo, non avevo sentito. Do la notizia, ma non voglio essere complice di una cosa di cui non me ne viene nulla, non mi interessa. Il sito della Stampa ha fatto così, mentre invece il Corriere e altri, almeno all'inizio, hanno scritto Badabà. Era talmente tanto l'oltraggio e il dolore per Paolo che è crollato, tracollato sotto il dolore del disvelamento, che ha cambiato, rovinato la sua serata. Achille, buongiorno. Buongiorno signor Ricoletti. Pronto? Sì, l'ascolto. Ovviamente distratto da una visione di Carlo Freccero con il giubbottino in pelle, lo vedo sì, in televisione davanti sì, a me. Sì, non c'entra nulla, insomma. Non mi fa ridere, perché ieri sera è un programma televisivo in giacca e cravatta, c'è l'opinionista politico. Adesso fa il divertente con la giacchetta in pelle. Posso osservare il tracollo di una persona considerata il guru della televisione, che adesso è diventato opinionista di tutto. Scusi, io parlo e commento in diretta ciò che vedo davanti a me. No, ma non è questo. Io volevo dire, no, cosa potrebbe cambiare a un disoccupato, a uno che non c'ha lavoro? Se anche tinto i capelli per essere in nuance con il giubbotto nero. No, scusi, prego. Ascolta. Cosa potrebbe cambiare? A me personalmente non cambia niente sapere in anticipo chi ha vinto Masterchef, no? Io vorrei sapere cosa potrebbe cambiare. Cioè, questa curiosità, no? A lei non cambia nulla, lo guarda lo stesso anche se sa chi vince. No, non lo guardo, sinceramente lo guardo di sfuggita, però io volevo riferire in merito alla questione. Cosa potrebbe cambiare in una persona sapere che ha vinto? Cioè, di queste cose, no? Ce ne sono tante. Beh, lei provi a guardare una partita, saper già chi vince, che gusto le dà. Guardi, ma questo, oddio, ha riferito una partita, mi sembra un po', insomma, ecco. Però, ho mischiato il sacro e il profano, il calcio con la cucina, certo. Cosa potrebbe cambiare? È profanazione. Lei si faccia conto, no, con il tipo di situazione economica che abbiamo in Italia a questi certi livelli. Il signore ha detto, dopo il lavoro mi distraggo, no, ma lei si mette nei panni di uno che non ha di questi problemi, no? Cioè che non lavora proprio. beato lui che ha questo problema, il signore che ha parlato prima, che ha soltanto Vabbè, a chi? L'abbiamo capito. Lei ha la voce rotta dall'indignazione. Abbiamo ripreso Paolo dopo il crollo. Paolo, lei guarderà lo stesso allora, il suo programma? Io lo guarderò perché mi diverte guardarlo. Pur sapendo come finisce. Quel signore lì, io di problemi ne ho tanti. Se io mi svago per 2 ore e mi svago di più se ho questa piccola suspense, è chiaro che è l'ultimo dei miei problemi, è l'ultimo dei problemi del paese. Molte persone non hanno lavoro, molti sono malati, io stesso ho i miei problemi, ma mi stavo svagando, mi divertivo un'oncia di più, e perché Ricci me lo doveva rovinare, secondo me non doveva farlo, mi ha fatto uno sgarbo personale. Mi ha fatto uno sgarbo, allora Paolo è d'accordo con quello che dicono i tre cuochi, lo sgarbo non è tanto a noi quanto al pubblico che ci segue. Gli abbiamo tolto una parte del divertimento. 800 24 00 24, che ne pensate di ciò che è accaduto all'interno del talent destinato alla cucina Masterchef 4, di cui è stato rivelato lì il vincitore in anticipo da Striscia Notizia, ma ancora di più è stato rivelato che uno dei concorrenti, che in realtà dovrebbe essere una sorta di rappresentante del medio italiano che sa cucinare e ambisce a diventare come tre grandi cuochi, ma in realtà era un cuoco professionista. Melog, cronache meridiane. Beh, sono un po' agitato perché lo so che ho rischiato, però penso che voglio vincere Masterchef, ma voglio vincerlo con la mia idea di cucina. Io assaggio così. Cosa c'ho? Niente. Allora mi dovresti dire che devo mescolare, perché sennò sembra un piatto buttato lì, no? Sì, no, l'idea è quella, no, che... L'idea è una cosa, il piatto è un'altra, perché l'idea è la base su cui si organizza il lavoro. Cazzo, un'insalata di riso in un pressure test è la cosa che qualsiasi casalinga, anche non di Voghera, farebbe. È proprio quello il discorso. Secondo me fa schifo l'insalata di riso, può essere magari anche buona. Poi se non è buona, invece non è buona, lo accetto naturalmente. Cos'è che senti, primo? Il mare. Tu ci senti il mare? Sì, adesso. Effetti che sul fatto che l'insalata di riso sia abbastanza squallidina come proposta culinaria, quando a casa c'è l'insalata di riso nessuno aveva voglia di cucinare. L'insalata di riso è un risetto bollito, ci si butta dentro un po' di schifezze, è la peggiore delle ipotesi, sott'oli e sottaceti comperati al supermercato, è il tipico pranzettino aziendale. In tutte le mense aziendali c'è l'insalata di riso sotto cellofan, in tutti i supermercati c'è la fila delle persone che devono mangiare veloce, si prendono l'insalata di riso con il wurstel tagliato a fettine, con il cetriolino pezzettato e con qualche olio di semi vari. Sì, mi dicono di fare, vabbè, non mi fermo su queste esperienze, io sto parlando di Masterchef, avete sentito? Vi sentireste voi in grado di subire una vessazione così potente? Immaginate che in questo momento rientra a casa il primo marito, il primo figlio, la prima moglie, a secondo il punto di vista, sotto mano vi guarda davanti a fornelli e dice: ma che schifo questa insalata di riso. E invece su questo si articola un programma televisivo che oggi ha avuto l'onta di essere anticipato con uno spoiler sul suo grande e glorioso finale. Mi scrivono alcuni ascoltatori: che colpo basso tra emittenti, vera bastardata, di sicuro danno economico per la produzione. Poi qualcun altro dice: dite a Paolo di guardarsi YouPorn, almeno impara qualcosa. Cioè, non si è ben capita questa cosa, ognuno ha i suoi gusti, chi gli piace guardare i programmi di cucina, chi gli piace guardare i programmi di camera da letto o di sottotavolo e via dicendo. Poi dice: potrebbero fare quelli Striscia Notizia, anticipare i trucchi e tarocchi dei loro programmi, tipo Scherzi a Parte, che sono tutti finti. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io non vedo Masterchef, non l'ho mai visto e non mi piacciono i programmi tipo Masterchef, però volevo intervenire. Perché, non me la domanda, perché non le piacciono i programmi che rappresentano la cucina? Qualcosa di personale contro la cucina? No, le permetto, io sono non vedente, finché quindi, ho visto... adesso non li vede più, è chiaro. No, però sono rimasta colpita dal fatto che qualcuno, evidentemente, non so per cattiveria o che, abbia fatto la spiata che questo ragazzo lavora già in presso... Però se è vero è contro il regolamento. Il regolamento dice non essere dei dilettanti, lui è un professionista. Se fosse vero, questo è un punto a sfavore comunque. Ma però allora, cioè, nessuno si strappa le vesti o nessuno si indigna, però fa parte di un piccolo trucchetto, se veramente questo risponde a verità. Sì, e se lui poi perde il posto sia al ristorante che a Masterchef, se viene squalificato, che voglio... se... sì, però scusi, uno propone sì. un programma con un regolamento la cui chiave essenziale, che sono persone non professioniste, potrebbe andarci lei, potrei andarci io, e possono ambire al titolo di chef conquistandoselo, subendo con le forche caudine degli insulti dei tre simpaticoni. Se poi invece uno che già lavora in un ristorante è tutta una finta, è tutto un tarocco, basta saperlo e dirlo, questo è il problema. Giovanni cosa sì, pensa? Buongiorno Nicoletti. Niente, io mi meraviglio proprio di questo che è successo, ma non a livello della diffamazione della trasmissione, ciò che succede nei reality, ecco. Qui ci vorrebbe proprio un finale, mi sente? Sì, mi dica. Ci vorrebbe la famosa frase di Giannino, no? Sì. Vergogna. Vergogna? Cioè, rivolta verso chi? Verso chi questa frase di Giannino Vergogna? Verso tutti gli organizzatori di quella trasmissione, compresi quelli là che fanno, come diceva lei, i sergenti. Ognuno cita le frasi che vuole, ma onestamente a me le persone dicono vergogna, vergognatevi, mi fanno un po' sorridere, mi sembrano i frati salesiani ai tempi del convitto. No, cioè, vergogna di che? Chi sei tu per dire a me che mi devo vergognare? Ma perché io perlomeno sono una persona onesta al lavoro. Sì, vabbè, ma tutti siamo onesti, nessuno deve fare, però il santino la propria onestà dire agli altri vergognati, vada per la sua strada chiunque, io la penso così, questo è il mio punto di vista. Simone. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Ma io ne sono dell'idea che hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Finalmente una voce contro il coro. Omnia licet. Innanzitutto perché se è vero che il protagonista, insomma, uno dei partecipanti è una persona che ha già lavorato e quindi non è un principiante, e già c'è un po' di tarocco nel programma. Poi invece questa cosa di svelare sia problemi, problematiche del programma, lo porterà anche le pubblicità. Nel senso, in America esiste questa cosa, la contrapposizione. Cioè, da noi non è permesso la legge, in America c'è la pubblicità diciamo contrapposta. Io posso dire quel sapone fa schifo rispetto al mio, che bello. In Italia non si può fare, che funziona. Secondo me per il consumatore sarebbe una cosa interessante. Una garanzia. Ma diciamo, io mi esprimo sulla veridicità della televisione, ne ho parlato per anni, io do per l'idea che tutta la televisione sia un gran teatro, sul fatto che i programmi vengano registrati prima e poi passati per diretta è un problema di produzione, sarebbe meglio che i programmi fossero in diretta, si eviterebbe questo problema. C'è anche da dire che si è alzato un altro livello, un'altra soglia della competitività tra le reti televisive. Adesso chi registra i programmi sa che potrebbe esserci d'ora in poi il rischio che qualcun altro riveli qualcosa che non andava rivelato, e quindi va a vantaggio tutto sommato del consumatore di televisione, che avrà programmi più freschi, programmi soltanto in diretta, programmi che avranno comunque la minor confezione ma più senso di passione. E poi è chiaro, tante cose non si facevano prima, non era mai concepibile, percepibile che ospiti andassero in televisione e avessero possibilità di dire quello che vogliono in diretta, prima erano registrati apposta i programmi. Lei pensi che la radio, con le telefonate come questa che sto facendo io con voi, nei primi anni che la facevo io, in Rai c'erano due studi contrapposti, c'era la diretta differita, per paura qualche ascoltatore magari dicesse Fanfani infame, cose del genere. Allora, la diretta finta si faceva in uno studio e 5 minuti dopo andava in onda, in modo che il tecnico con il grembiulino bianco facesse in tempo a tagliare la frase incriminata. Quindi è cambiato anche la percezione della possibilità di partecipazione del pubblico. Giancarlo. Sì. Giancarlo, il suo punto di vista. Ma semplicemente io non sopporto questo tipo di trasmissione, innanzitutto per l'arroganza e la presupponenza dei cuochi che... Una sceneggiata è fatta apposta, fanno i personaggi, sennò... Sì, ho capito, però il fatto stesso che venga falsata una cosa del genere mi sembra assurdo. Bisogna dare l'impressione che è una prova all'ultimo sangue. Ho capito, ma cioè, per uno spettatore che guarda la trasmissione, scoprire poi che già il vincitore è stato designato, mi sembra una presa in giro decisamente assurda, ecco. Secondo me dovrebbe essere una cosa più semplice, più lineare, senza tanti trucchi turchetti. Non è designato, è che la puntata l'hanno registrata una settimana fa, 3 giorni fa, andrà in onda domani sera. È sempre la solita, il solito equivoco del tempo televisivo. Nel tempo televisivo è già avvenuto, nel tempo dell'umanità ancora non è avvenuto. Arriva a un certo punto, però, visto che ormai è difficile non far combaciare questi due tempi, che il tempo della televisione, che il tempo fittizio della registrata e dicendo, va a coincidere col tempo nostro, che è il tempo che verifica le cose mentre accadono. E questo, secondo me, servirà a rifare un po' i conti a chi produce televisione, immaginare che un programma registrato oggi è molto difficile che si tenga nascosto nel suo esito. Una volta si registravano anche i capodanni, oggi non si può fare più. A domani.